24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:34 minuti, ben svegliati, eccoci qua, noi siamo già pronti, ci potete seguire anche su Twitter, @24mattino la trasmissione, oppure Alino Milan sono io e possiamo stare connessi, tutti connessi. Che dire, siamo già pronti qua a tirare sulla nostra saracinesca, il nostro bar a Radio 24. Chi c'è qua? Non rispondo a nessuna domanda, non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, almeno il caffè volentieri a tutti quanti, pagato da Nicole Minetti, come avete sentito. E dunque pagato anche così, non pago io, ma e poi anche se fosse gratuito, sapete, e lo dico sempre per Attilio Befera, emetto lo scontrino comunque. E allora avviso ai clienti, paga tutto Nicole Minetti. Saluto Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno e ben svegliato, Maurizio. Buongiorno e buon'alba a tutti. Eccoci, buon'alba, vabbè. È proprio l'animo del giornalista, no? È l'alba per un giornalista, effettivamente. Caspita. Saluto Alberto Forchielli, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Alberto Forchielli, tra l'altro, è presidente dell'Osservatorio Cina, è un imprenditore. Asia, certo. Va spesso, vive tra l'Italia, la Cina, non solo il sud-est asiatico. È uno, tra l'altro, ve lo ricordate quando fece una comparsata a Piazza Pulita? Lei se lo ricorda, ovviamente, Forchielli, quando andò a Piazza Pulita. Sentite cosa pensa dei politici Forchielli, no? Che sono dei ciarlatani, cioè, non contano più niente, sono diventati dei ciarlatani, capito? Questo sono diventati ciarlatani un po' in tutto il mondo. Questo è un argomento. In Italia, in modo particolare, capito? Questo è un argomento. La politica non conta più. È normale che i politici dicano bugie. Forchielli, questo sono dei ciarlatani. C'era lì Rutelli che, vabbè, poi vi siete anche un po' scontrati. Cos'è che gli ha detto a Rutelli? Ho detto delle cose che non posso, non voglio ripetere. Vabbè. Sono dei ciarlatani, così, non contano più niente, sì. Conta la finanza, conta l'Europa, conta la Cina, conta il debito pubblico, i politici non contano più niente. Questo pensa Forchielli. Voglio salutare anche Claudia Vago, buongiorno. Buongiorno Claudia Vago. Dopo questa cosa che ormai i politici non contano più niente, conta la finanza. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Claudia Vago è una blog. Intanto, che lavoro fa? Cosa fa nella vita Claudia Vago? Io mi occupo di social media curation. Insomma, lavoro con i social media. È una blogger. È su Twitter è molto seguita con l'account di Tigella. È questo? Esattamente. E poi va in giro per il mondo a seguire un po' tutti questi occupai. Tra poco va a New York, no? Sì, vado a New York per l'anniversario del movimento Occupy Wall Street, che è nato a settembre dell'anno scorso, con insomma, questa occupazione di Zuccotti Park a due passi da Wall Street, che è durata insomma un paio di mesi, e vado a vedere un anno dopo come stanno. Un anno dopo come stanno. Intanto io vi voglio tutti far sentire che cosa ha detto, una delle cose che ha detto il premier Mario Monti ieri sulla Ripresa, perché vorrei partire da qui, perché ragazzi, si leggono i titoli dei giornali, tra poco ci hanno consegnato anche i giornali, vedremo qualche titolo. È un disastro, cioè sembra che stiamo proprio stiano tracimando gli argini e stiamo affossando tutti. Allora, sentite Mario Monti cosa ha detto. Io invito a constatare che Ripresa, se riflettiamo un attimo, è dentro di noi. La ripresa è dentro di noi. E Maurizio Tortorella, Alberto Forchielli, Claudia Vago, la ripresa è dentro di noi. Maurizio, non so, è dentro di noi la ripresa? Era un discorso un po' come mistico. Come diceva Kant, il cielo stellato è sopra di noi, perché esattamente non riesco a capire cosa diavolo voglio. Era un discorso oggi Libero mette la foto di Sai Baba, no? Come dire, ve lo ricordate, Sai Baba Monti, no? Per carità, allora voglio dire, è ovvio che un primo ministro, un presidente del Consiglio debba in qualche maniera chiamare, convocare i suoi cittadini alla chiamata generale, alle armi. Più volte è stato parlato, Monti ha parlato di di uno stato di guerra, no? Però questo tipo di affermazioni sono lasciano il tempo che trovano, insomma, e poi non aiutano, perché la gente si deve sempre presa un po' in giro, insomma, la ripresa è inevitabilmente sicuramente nelle mani di noi tutti. Sì, sì, questo era il significato, no? E dentro di noi vuol dire, era un appello, come dire all'unità, no? Ognuno può fare qualcosa per il proprio paese, questo. Esattamente, no? Però francamente le frasi di questi politici non aiutano, perché poi trovo che soprattutto da tecnici prestati alla politica, ai quali si chiede di risolvere problemi, francamente e personalmente io chiederei meno parole e più atti, forse anche un po' diversi rispetto a quelli che fanno. No, ma tra l'altro mi ha colpito anche Alberto Forchielli qui, e tiro in ballo anche la prima copertina di Panorama, ma anche su Libero. Ecco, Panorama oggi apre su questo: come fregare la crisi, come risparmiare sull'auto, sul parmigiano reggiano, sul divano a 2000 euro. Su Libero invece, come risparmiare uno stipendio all'anno. Forchielli, c'è anche il funerale low cost. Ha capito? Dobbiamo pensare anche al funerale, a come risparmiare, perché bisogna fare le formichine. Siamo davvero ridotti così? Il paese sicuramente va incontro a un abbassamento del tenore di vita. Abbiamo 3 miliardi di nuove persone che si affacciano al mondo dell'economia, hanno fame, hanno speranza, hanno ottimismo, hanno voglia di lavorare. E noi? Una volta il mondo era diviso in due, c'erano due cortine e noi eravamo i cinesi del mondo. Adesso col mondo allargato abbiamo a che fare con gente che lavora più di noi, meglio di noi, più a lungo di noi, che lascia il posto in fabbrica se la fabbrica non gli fa fare lo straordinario. E competere con questa gente è dura, la mentalità del 9 to 5 è veramente dura, è veramente ma anche dura per gli studenti, ci fanno un mazzo così, insomma, se sì, no. Ma anche per i ragazzi, capito? Ma lei lo sa perché la Cina è la 103esima nazionale di calcio al mondo ed è seconda Olimpiadi, ma a calcio non c'è niente da fare? Perché? Non sanno far perché squadra, perché i ragazzi no? Studiano troppo. Perché l'unico segreto nel calcio è giocare. Il problema è che in Cina vanno a scuola il pomeriggio fino alle 5 e le famiglie che se li possono permettere li mandano alla scuola supplementare alle 7. Quindi per cui nessuno gioca. Nessuno fa calcio, tutti ignorantoni calcio, questi calciatori. Per calcio ci vogliono 100 milioni di ragazzi che giocano 12 ore al giorno, 7 ore al giorno come fanno in Brasile. E non studiano niente. Si giocano a calcio perché il calcio è il segreto, non è che uno lo inventi in provetta, non è che tu riesci a indovinare a 8 anni se uno diventa un bravo calciatore, deve solo giocare, perché un bravo calciatore può essere basso, alto, culo basso, non importa, ok? Il problema è che questi lavorano. Ma ho capito, ma quello è il sistema. Qual è la soluzione? Dobbiamo lavorare anche noi 20 ore al giorno? Li vediamo anche i cinesi che aprono le attività, i piccoli commercianti qui? No, io ragazzi, quando ci parlo a Milano mi dico, ma le ferie? Ma cosa sono le ferie? Io lavoro 24 ore al giorno. Qua. I cinesi in Italia, a parte il problema delle tasse, che loro hanno un sistema omertario per cui riescono a lavorare tutti nero, a parte questo, però fanno soldi con i bar, fanno i soldi con le lavanderie, appunto, fanno soldi sono con sempre i aperti, sono sempre aperti, fanno i barbieri, qualunque cosa facciano fanno delle barche di soldi, perché lavorano come delle bestie e spendono niente. Ho capito, ma è quello il modello a cui dobbiamo ambire anche noi. Ma non noi. È il modello, no. È la concorrenza con cui abbiamo a che fare. Quindi per cui ci sono due alternative: o ci adattiamo a lavorare di più, o ci adattiamo a un basso tenore di vita. Io intanto il mondo, la nostra politica, non lo sposta, perché non contiamo niente. Non se ne frega niente a nessuno. Vedete che poi esce fuori quel Forchielli là. Io vorrei, prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, andare da Claudia Vaggo per capire che ha provato un brivido quando Angela Merkel 2 giorni fa ha detto che i mercati non aiutano i popoli. È un po' quello che andate dicendo voi, anche di Occupy New York. Occupy Berlino? No. quello che dicono loro, sì, è un sì. po' quello. Infatti io più che un brivido, una risata, nel senso che buongiorno Merkel, è un piacere sentirlo, insomma. Quello che rimane abbastanza poco chiaro però è per quale motivo, se la Merkel pensa questo, le politiche che continua a proporre, che le politiche che continua a imporre per esempio alla Grecia vanno in tutt'altra direzione e sono fatte per compiacere i mercati, che se sono i nemici del popolo, insomma, in qualche modo. Ci si chiede quindi la Merkel da che parte stia, dovrebbe essere rappresentante del popolo e invece evidentemente i nemici del popolo, certo che questa affare no, questa frase qui, nemici, ma poi cosa vuol dire? Cioè, i mercati, lei la vede così, sono fatti per far guadagnare pochi a scapito di molti. Che è un po' vero, però insomma detto da chi da anni porta avanti politiche che appunto sono fatte per compiacere i mercati è un po' ridicolo, insomma. E ci si aspetterebbe allora un cambio di direzione di politica, o più probabilmente semplicemente una frase da campagna elettorale, diciamo. Forse è quello. Allora, Maurizio Tortorella, qua c'è da capire se dobbiamo adeguarci ai cinesi, se non vogliamo farlo, come ci ha detto Alberto Forchielli, quello è il modello che è vincente, almeno concorrenziale, con cui dobbiamo avere a che fare. E noi cosa dobbiamo fare, come scrivete sul Panorama? Dobbiamo andare a risparmiare sul parmigiano reggiano, capire come risparmiare sulla forma di... sul divano, sulle scarpe? Ma guarda, è una copertina non soltanto consolatoria, ma, di servizio, come si dice in gergo, cioè utile. Cioè vi diciamo come risparmiare, visto che questo è un dato di fatto. In un momento che indubbiamente è duro e difficile per tutti, siamo andati a vedere che abbiamo scoperto che il 27% dei prezzi è propone offerte speciali, e questo in tantissimi settori, non soltanto nell'alimentare. E complessivamente, se uno approfitta delle occasioni della crisi, e quindi delle offerte speciali o dei cali in certi specifici settori, il risparmio è cospicuo, può essere potenzialmente cospicuo, perché grosso modo si possono risparmiare 2.500 euro all'anno. La scelta oculata, che dovrebbe essere sempre quella che appunto governa le scelte della spesa, dalla crisi può trarre Pensate che a Firenze è nato anche un ristorante, lo leggevo questo sul Libero, dal titolo che si chiama così, Le Maiala, cioè nel senso è dura, sono momenti difficili. Dove puoi pagare col baratto. Dove si può pagare col baratto, ma col baratto, Forchielli, siamo arrivati al baratto, Le Maiala, questo a Firenze la dicono così, siamo a questo, Forchielli. Spendere meno e abbassare il tenore di vita, la stessa cosa. Voglio dire, quando io dico o ci mettiamo in concorrenza o abbassiamo il tenore di vita, vuol dire spendiamo meno, risparmiamo di più, finanziamo il nostro debito con i nostri maggiori risparmi, perché il nostro risparmio è andato calando, e il paese si adegua a trovare occasioni, a vivere di scampoli, a riciclare i vestiti, a fare le suole delle scarpe, si torna indietro. Senta, visto che qui c'è Claudia Vago, siamo già tornando indietro da molti anni. Lei che ne pensa, Forchielli, di questi movimenti? Qui c'è Claudia Vago che fa parte di uno di questi movimenti, o comunque segue tutti questi movimenti in giro per il mondo, il più famoso Occupy Wall Street, no? A Zuccotti Park. Che ne pensa di questo, quello che ha detto la Merkel? Così magari. No, allora ho molta simpatia per i movimenti, ma bisogna distinguere i movimenti. Ce l'hanno con l'esagerazione e la rapacità della finanza che ha divorato la realtà industriale. L'America è un paese che ha pensato che il futuro sarebbe stato nella finanza e non nell'industria. Poi dopo ha smantellato l'industria, poi si è reso conto che la finanza non era altro che un enorme castello di carta fatta di gente molto avida e imbrogliona, che ha capito che che ha messo sul lastrico e ha distrutto 100 milioni di posti di lavoro. Allora sì, vado anch'io a Zuccotti Park. Va anche ragione. È questo, Claudio. Questo. La finanza non si campa. Soldi non si fanno con i soldi. Cioè, è questo, Claudia, che contestate, cioè non tanto la finanza, ma le esagerazioni, la rapacità, come la definisce Forchielli. Cioè, va bene la finanza oppure andrebbe smantellata del tutto? Diciamo che dentro Occupy Wall Street ci sono molte anime diverse. Ora, io non ne rappresento nessuna, non facendo parte del movimento, limitandomi ad osservarlo. E ci sono quelli che pensano che appunto basti una riforma del sistema così com'è, ci sono quelli che pensano che hanno idee più radicali, per cui in realtà c'è un po' di tutto, insomma, probabilmente potrebbe trovare il suo posto anche Forchielli dentro Occupy Wall Street, che è più un movimento che è lì per sottolineare una serie di problemi che non per trovare delle soluzioni, per quanto alcune soluzioni si stanno sperimentando. Maurizio, cosa sono degli idealisti, dei nuovi idealisti, oppure porta avanti la battaglia giusta, anche se con anime diverse, con aspirazioni diverse? Alcune posizioni sono corrette, il metodo mi sembra assolutamente inadeguato, tant'è vero che devo dire di Occupy in giro per il mondo non ce n'è più neanche mezzo, questo è il punto. Sì, si può fare la cerimonia e la commemorazione, ecco, forse più una commemorazione, ma non mi pare che abbiano né ottenuto alcunché né proposto alcunché. E come sempre sono velleitarismi fini a se stessi che lì si fermano, insomma, onde che si infrangono su uno scoglio, no? Niente di più. Eccolo qui, Claudia, questo fate, onde contro gli scogli, no, della fine. No, Forchielli dice di no. Perché? No, perché loro sono l'apice, rappresentano un movimento larghissimo di persone, di opinione pubblica, almeno negli Stati Uniti, che non ne possono più dell'esagerazione della ricchezza dei ricchi finanziari. E questa è la politica che porta avanti Obama, che dice tassiamo i ricchi, smantelliamo la finanza, torniamo all'industria. Quindi sono una manifestazione di un qualcosa che si concretizza poi a livello politico. È lo scontro dell'attuale campagna presidenziale americana. Ossia, Romney rappresenta il vecchio mondo che dice dobbiamo tornare a riabbassare le tasse ai ricchi, e Obama dice io voglio mettere più tasse a tutti i ricchi che non le pagano, perché con tutta questa storia dei capital gain, del guadagnare sui extra profitti, le tasse sono molto basse, per riequilibrare la ricchezza della finanza, capito? Quindi ma c'è... il problema vero, sì, è che la finanza è diventata così ricca che è padrone della politica. Infatti, ormai sono 10 anni torniamo che lì, i politici sono ciarlatani, non servono più a niente. So. I politici vivono, Romney ha raccolto una baracca di soldi, adesso fa una pubblicità tremenda, sì. Perché ha raccolto un sacco di soldi della finanza americana, perché la finanza americana, le lobby finanziarie si sono impadronite dalla Casa Bianca, ma questo è successo già dai primi anni 2000, capito? Oggi nel nostro bar abbiamo volato abbastanza alto, avete capito? Abbiamo parlato di questo. C'è però De André che già ci accompagna, ma il bar rimane aperto, poi leggeremo i giornali alle 7:20. Io devo ringraziare per il momento Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, Alberto Forchielli, presidente Osservatorio Asia, Claudia Vago, la trovate Tigella così su Twitter alle 7:20. Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del Carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al 100° catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Non rispondo a nessuna domanda. Che sono dei ciarlatani, cioè non contano più niente, sono diventati dei ciarlatani, capito? Questo sono diventati ciarlatani un po' in tutto il mondo. In Italia in modo particolare. Capito? Questo è un argomento. La politica non conta più. È normale che i politici dicano bugie. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Eccoci ritornati alle 7:20. Allora, cari ascoltatori, se non siete stati con noi nel bar di Radio 24, iniziamo Allora, adesso a farvi compagnia con la lettura dei giornali, vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8.20 il sindaco di Reggio Emilia, nonché presidente dell'Associazione dei Comuni, Graziano Del Rio, per parlare anche di attualità politica, visto che lui è un rappresentante del PD. E il PD vuol dire Renzi, le primarie, la discussione interna al partito. Poi parleremo alle 8.30, dopo la proposta rilanciata qualche tempo fa dal sindaco di Napoli De Magistris di creare delle zone a luci rosse nelle nostre città, dei tentativi di regolamentare in questo senso la prostituzione. Che ne pensate, l'idea che nelle città ci siano dei luoghi adibiti alla prostituzione, le zone a luci rosse, quartiere a luci rosse? Ne parliamo più avanti. Ora allora andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani d'edicola. È giovedì 6 settembre, classica situazione in cui non c'è una notizia più importante delle altre, quindi ogni quotidiano fa una scelta pressoché diversa sull'apertura. Il Sole 24 Ore, appello di Monti alle parti sociali. Per il Corriere della Sera invece medici di base 7 giorni su 7, è una delle novità previste dal decreto sanità approvato ieri in tardissima serata in Consiglio dei Ministri. Repubblica, commercio, obbligo di bancomat a partire da 50 euro, è un'altra delle novità uscite da Palazzo Chigi. Per la Stampa, scontro sul piano antispread, qui invece si guarda al direttore della BCE di oggi. Anche sul Messaggero, Merkel frena il piano BCE e il secolo XIX antispread lite BCE-Merkel. Per Libero invece continua la campagna difendersi dalle imposte, lo sportello antitasse apre una casella di Libero per aiutare i tartassati di Equitalia, fisco@liberoquotidiano.it, è un'iniziativa lanciata da Libero. Il Fatto Quotidiano invece sull'interrogatorio di Berlusconi, ieri interrogato a Roma dai magistrati di Palermo, Mangano e Dell'Utri, due persone per bene, questo è il titolo di apertura. Il Giornale, il piano per tenersi Monti e la corsa al Quirinale, mentre l'Unità, Bersani al PD, basta divisioni. Il Manifesto invece sul lavoro, liberiamo il lavoro, questo è il titolo di apertura del Manifesto. Voglio partire da quello che racconta Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera, che riguarda la regione Friuli Venezia Giulia. Il titolo è già tutto un programma. E di notte svanì il divieto di finanziare i parenti. Questo è il titolo, Gian Antonio Stella in prima pagina. Fratelli, sorelle, figlie, cognati, cugini degli amministratori del Friuli Venezia Giulia stanno libando nei lieti calici. La legge che impediva ai loro congiunti di dare soldi regionali alle società di parenti è stata, almeno in parte, abolita. Ma questi sono matti, in un momento come questo mettono il dito nell'occhio della gente. Così è sbottato la notizia a Roberto Antonione, ex presidente regionale. C'era lui quando fu fatta la legge 7 del 20 marzo 2000. All'articolo 31 fu stabilito che non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Per 12 anni, racconta Gian Antonio Stella, è dunque rimasto questo divieto deciso dalla giunta di centrodestra di arginare chissà quanti regalini ai parenti, finché in una notte d'estate, approvando l'ultimo assestamento al bilancio prima delle prossime regionali del 2013, l'attuale maggioranza, ancora di centrodestra, come di centrodestra era quella che aveva approvato questa norma, si è alleggerita del fastidioso ingombro e ha inserito due righe di interpretazione autentica di quest'articolo 31, scrivendo che tra gli organismi indicati, per i quali vige il divieto di dare soldi a parenti e affini, non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato, di promozione sociale, privi di finalità di lucro. Una modifica fatta, come capita in questi casi, alle 3 di notte del 4 luglio. Un comunicato stampa così generico da sfuggire a ogni osservatore malizioso. Pensate che, se ne è accorto, scrive Stella, Marco Ballico del Piccolo di Trieste, il quotidiano di Trieste, neanche l'opposizione se ne era resa conto. Qualcuno dice, sono sincero, non sapevo nulla, non ce ne eravamo neanche accorti di questa approvazione. verrebbe da dire, insomma, che opposizione molto attenta a quello che viene approvato in consiglio regionale. Devo dire che questi sono contributi che si possono dare solo a società no profit, fanno sapere dall'opposizione. Già, ma ci sono già dei casi che fanno discutere. Primo tra tutti, racconta Stella, per esempio, un'approvazione di 400.000 euro versati con un appalto a trattativa diretta senza gara a una radio privata, RTL 102.5, per un mese di promozione turistica grazie a una postazione volante in piazza Ponte Rosso con interviste e collegamenti. Un appalto già nel mirino della magistratura, che mesi fa ha mandato avvisi di garanzia all'assessore leghista alle attività produttive Federica Seganti, all'ex direttore del turismo della regione e infine all'amministratore unico di una società, Massimo Lombardo, e a sua moglie, con titolare dell'agenzia che si è occupata della cosa. Insomma, diciamo che Gian Antonio Stella racconta questo spaccato dal Friuli Venezia Giulia, il titolo: Trieste, tolto il divieto antiparentopoli, i consiglieri possono finanziare i familiari. Il voto in regione è arrivato di notte, anche se il 4 luglio. Sì ai fondi per società no profit di mogli e fratelli. C'è anche, racconta Stella alla fine di questo articolo, una velleità del senatore leghista Mario Pittoni, il quale, per la gioia dei suoi elettori friulani, avrà una partecipazione nel film che Renzo Martinelli, regista di Barbarossa, amatissimo dai leghisti, dedicherà col titolo September 11, 1683 alle gesta di Marco Daviano, il frate che ebbe un ruolo di spicco nella difesa di Vienna attaccata dai turchi. Ebbene, il parlamentare Pittoni, in omaggio a un trisnonno, Giambattista Pittoni, che partecipò alla storica battaglia, avrà questa particina. E Gian Antonio Stella conclude l'articolo in maniera molto corrosiva a dire: sta di fatto che il film sarà finanziato anche dalla regione Friuli con 150.000 euro. Questo lo trovate in prima pagina del Corriere della Sera. Poi vi voglio segnalare, ci sono vari articoli sulla vicenda di Anna Maria Franzoni. Ve li segnalo perché delitto di Cogne, vi ricordate, è un delitto che spaccò l'Italia, ancora un po' spacca l'Italia, molte persone tuttora, nonostante la sentenza in via definitiva, non credono che Anna Maria Franzoni abbia ucciso, non credono a quella verità giudiziaria, che abbia ucciso il figlio. Ebbene, ritorna nelle prime pagine dei giornali Anna Maria Franzoni, perché ha chiesto tramite i suoi avvocati di poter continuare a scontare la condanna agli arresti domiciliari per assistere uno dei due figli, vale a dire Gioele di 9 anni, colui che è nato tra l'altro dopo il delitto che si era consumato a Cogne. Ma i giudici hanno detto no. La Franzoni resta in cella, i giudici no ai domiciliari. Il Messaggero, per esempio, lo mette in prima pagina, poi fa un'intera pagina all'interno, pagina 11, così come il Giornale, altro no del Tribunale, la Franzoni resta in cella, racconta Simone Canettieri sul Messaggero. Anche se la sua famiglia non abita più a Cogne, ma in un casolare dell'Appennino tosco-emiliano, per Anna Maria Franzoni è la stessa cosa. Il Tribunale di Sorveglianza ha detto no alla richiesta di arresti domiciliari. Rimane nel carcere Dozza di Bologna, dove sta scontando la condanna di 16 anni meno 3 di indulto per il delitto del figlio Samuele. Era il 30 gennaio del 2002. Interessante la motivazione. Perché i giudici hanno negato questa richiesta? Perché il giudice del Tribunale di Sorveglianza, Roberto Raffa, si è opposto con questo motivo: da quando è dietro le sbarre le è stata sospesa la potestà genitoriale. Per il momento, dunque, Anna Maria Franzoni non è neppure giuridicamente madre. Di più, a carico di Franzoni opera il principio della preclusione temporale in relazione alla pena finora espiata. Beh, questa è una cosa un po' più tecnica, però interessante, più che altro questa: è stata sospesa la potestà genitoriale, è scaduta dunque la sua potestà genitoriale, da quando è in carcere formalmente non è più madre. Ecco dunque il no a Anna Maria Franzoni, che deve continuare a scontare la propria pena in carcere per il delitto del piccolo Samuele di Cogne. Ieri al mattino il presidente di Confindustria Squinzi aveva detto temo un autunno bollente con casi di crisi aziendale che mediaticamente non finiscono sui giornali. Poi c'è stato l'incontro con le parti sociali, il premier Mario Monti, che invece ha fatto un appello alle parti sociali, ha detto anche questa frase per la quale qualcuno ha anche ironizzato, c'è una frase anche quasi mistica: la ripresa è dentro di noi. Era un appello, cioè a voler dire che tutti possiamo prendere in mano questa situazione e cercare di fare qualcosa. Tutti ovviamente i protagonisti, in questo caso era appunto l'appello alle parti sociali. Ieri poi c'è stato il primo incontro delle parti sociali e il governo, con il titolo per esempio a pagina 3 del Sole 24 Ore, Squinzi, dialogo costruttivo. Cioè la domanda in conferenza stampa: se dopo l'incontro l'autunno sarebbe stato meno bollente rispetto a quanto ha detto al mattino, il presidente di Confindustria ha risposto: mi auguro di sì, ma non ho fatto altro che constatare la situazione reale del paese, con molte aziende in difficoltà. Soprattutto soffermandosi sul farmaceutico, ci sono stati 3 provvedimenti in 8 mesi che l'hanno depotenziato. È un settore strategico per il paese perché fa ricerca e innovazione, va sostenuto, altrimenti sono a rischio investimenti italiani e delle multinazionali. D'altronde, cari ascoltatori, che la situazione sia una situazione difficile, intanto lo vedete tutti i giorni facendo i conti, no? I conti della serva, come si suol dire, andando a fare la spesa, pagando le bollette, vedendo il vostro conto in banca. Ve ne rendete conto ovviamente in maniera molto molto pratica, ma anche se leggete i giornali stanno nascendo sempre di più delle pagine, degli articoli, dei servizi. Oggi addirittura la prima di Panorama, il settimanale Panorama, è questo: come reagire, come fregare la crisi. E ci sono i consigli all'interno. Non so, volete comprare la birra? Dice: comprate questa qui. Io non posso dire ovviamente adesso tutte le marche, se no sono pubblicità. Comprate questa qui che la trovate là al 34% di sconto. Oppure i biscotti, comprateli là in quella catena di distribuzione perché quel tipo di biscotto viene dato al 53% di sconto. O così il tonno, l'acqua, i succhi, gli alimentari, i vestiari, le scarpe. E uguale su Libero viene ripresa questa inchiesta di Panorama: come risparmiare uno stipendio all'anno. C'è anche l'idea del funerale low cost. Cari ascoltatori, in questa situazione c'è chi pensa al funerale low cost. Ma c'è poco da ironizzare, questa è la situazione. O voglio dire, voglio sperare che siano dei tentativi per portarsi già avanti, mettere avanti le mani, ecco, cerchiamo di risparmiare, fa sempre bene risparmiare, ma siamo davvero in questa situazione in cui bisogna scegliere il biscotto che è venduto al 30% di sconto? Evidentemente dalla lettura dei giornali pare di sì. Ieri intanto c'è stato questo Consiglio dei Ministri che è durato ore, era il famoso Consiglio dei Ministri nel quale si doveva sapere qualcosa sul decreto della sanità, quel decreto che era nato ponendo anche una bella tassa di 3 centesimi a lattina di bibita, per essere molto grezzi in realtà la tassa era un po' più complessa, ma così si riduceva, 3 centesimi a lattina di bibite zuccherate. Questa tassa è saltata, sono saltate altre cose. Alla fine c'è stato anche uno scontro all'interno del Consiglio dei Ministri, questo secondo Roberto Turno sul Sole 24 Ore, potete leggere la cronistoria a pagina 9 di questo Consiglio dei Ministri sul tema del gioco d'azzardo legalizzato. Alla fine è arrivato l'ok al decreto, tutti i dettagli ovviamente di che cosa prevede li trovate sui vari giornali, per il Corriere della Sera e addirittura l'apertura, con una delle novità che è quella che fa anche che va anche a incidere e impattare sulla vita di tutti noi: i medici di base 7 giorni su 7. Questo è l'obiettivo del ministro Balduzzi, cioè ristrutturare il servizio dei medici di base in modo da garantirli a disposizione 7 giorni su 7, dunque anche il sabato, anche la domenica. E poi su Repubblica invece il titolo di apertura, e che è sempre previsto in questo decreto, riguarda il commercio, obbligo di bancomat. Questa è un'altra novità che è uscita dal Consiglio dei Ministri: per i pagamenti sopra 50 euro il bancomat obbligatorio dall'estate del 2013, lo prevede il decreto che introduce l'agenda digitale, approvato dopo un Consiglio dei Ministri fiume anche il decreto sanità. E dunque, sul decreto sanità, se volete saperne di più, tutti i giornali fanno queste infografiche, ovviamente sono tanti elementi. Abbiamo detto, sparisce la tassa sulle bibite, non ci sarà più il latte crudo nelle mense scolastiche, per una questione immagino igienica. I videopoker dovevano essere a 500 metri dalle scuole e gli ospedali, poi si è tolto questo divieto, poi si è trovata una via di mezzo, devono essere almeno a 200 metri nella bozza, e sono tutte bozze del decreto, poi va convertito ovviamente in Parlamento e sapete che lì ci possono essere novità, cambiamenti, eccetera. Oppure ancora la riorganizzazione del territorio prevista per i camici bianchi, per i medici, allo scopo di alleggerire la pressione sui pronti soccorso degli ospedali attraverso l'apertura di servizi per i cittadini 24 ore su 24, medici di famiglia, pediatri di libera scelta, guardie mediche, specialisti ambulatoriali si aggregheranno per fare delle forme strutturate e garantire dunque 7 giorni su 7 di reperibilità. Poi il tabacco, una multa da 250 a 1000 euro per i tabaccai che vendono sigarette ai minori di 18 anni o anche prodotti simili. Ecco, un'altra novità molto importante è questa per la sicurezza di tutti coloro che fanno sport. Viene introdotto l'obbligo da parte di qualsiasi centro sportivo e dunque di società sportiva, anche palestra, di dotarsi di defibrillatore. Questo per contrastare gli attacchi di cuore quando uno fa magari attività sportiva. Molto spesso c'è gente che rimette la vita perché non c'è un defibrillatore a disposizione. Ecco, questo decreto della sanità prevede anche questo. Invece ieri abbiamo parlato della questione dell'IMU e la Chiesa, vi ricordate? C'era stato scalpore perché l'IMU deve pagare la Chiesa deve pagare l'IMU, la Chiesa deve pagare l'IMU, c'è stata questa campagna sugli ovviamente gli edifici che la Chiesa utilizza anche a scopi commerciali. I decreti attuativi non c'erano, è uno di quei decreti attuativi che già il Sole 24 Ore aveva detto mancano. Ieri è scoppiato questo bubbone. Bene, pare che il Ministero del Tesoro abbia accelerato sulla definizione dell'applicazione dell'IMU agli immobili della Chiesa, perché il Ministro dell'Economia ha comunicato di aver trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento di attuazione. Insomma, si cerca di mettere una toppa a questo IMU Chiesa, il governo prova ad accelerare, questo è anche il titolo di Repubblica. A proposito di questo però c'è un articolo non legato, non è questo tema IMU e Chiesa, ma riguarda la Chiesa e un possibile scandalo che racconta Giuseppe Caporale su Repubblica pagina 4. A 19 parrocchie i fondi pro-terremotati del Molise. Fu un favore elettorale del governatore del Molise Iorio. Questa è la teoria della Procura della Repubblica che sta indagando. Il sisma non colpì il loro territorio, eppure 19 parrocchie della provincia di Campobasso chiesero e ottennero 9 milioni di euro dal fondo per l'emergenza del terremoto in Molise avvenuto nel 2002. Questa è l'accusa e tra l'altro secondo la procura fu il governatore Iorio con un atto monocratico ad allargare l'area del cratere del terremoto a 69 comuni, in pratica coinvolgendo tutti i comuni della provincia di Campobasso tranne un comune sfigato, non si capisce perché non sia stato inserito pure quello. E secondo il magistrato dunque il governatore ampliò il cratere abusivamente per poter poi giustificare fondi arrivati, e i fondi arrivarono anche 2.300.000 euro per esempio alla parrocchia Santa Maria Assunta del comune di Guardialfiera, oppure 700.000 euro erogati alla parrocchia di San Nicola di Mira nel comune di Macchia Val Fortore, 600.000 euro alla parrocchia Santo Stefano nel comune di Limosano, e ancora all'Istituto Speranza di Campobasso 550.000 euro e ancora 500 e rotti mila euro alla parrocchia Santa Maria Assunta del comune di Spinete. Ma ancora si va avanti, comuni di Monaciglioni, cioè tutti i comuni che non dovevano essere, secondo la procura ovviamente tutto da dimostrare, nel cratere colpito dal terremoto, eppure finirono lì dei fondi a 19 parrocchie del terremoto colpite appunto, o meglio non colpite secondo alcuni dal terremoto stesso. È un giorno decisivo per la BCE, non è che voglio stare a spendermi molto su questo tema, ma oggi pare passerà la linea di Mario Draghi, cioè quello della possibilità di acquisti limitati di titoli di Stato per salvare i paesi in difficoltà o i paesi insomma che hanno sì difficoltà finanziaria, acquisti di bond senza limiti, questa pare che sia la linea di Mario Draghi. Il giorno prima di questo board BCE sia Mario Draghi sia Angela Merkel, che pare volersi mettere di traversa questa iniziativa, sono stati in rigoroso silenzio. Che succederà? Trovate gli articoli. Berlino alza la voce sul salva spread per la stampa, pagina 5, per il Corriere Eurotower divisa su come agire. Per il Manifesto a pagina 6 Draghi userà le maniere forti per forzare la mano, staremo a vedere. Ieri Silvio Berlusconi è stato interrogato dai magistrati di Palermo a Roma, quindi in trasferta dai magistrati di Palermo, perché la procura di Palermo indaga su una presunta estorsione che avrebbe fatto dell'utri a Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi negli anni ha fatto versamenti per circa 40 milioni di euro a dell'utri, e secondo la procura di Palermo li ha fatti perché minacciato, vogliono vederci chiaro in questi versamenti. Berlusconi, che cosa si evince dall'interrogatorio, come racconta Giovanni Bianconi a pagina 27 del Corriere della Sera? Berlusconi, soldi a dell'utri, regali in segno di riconoscenza. Ha assolutamente escluso qualsiasi tipo di possibile estorsione da parte di dell'utri nei suoi confronti. Ha parlato di un dell'utri al quale ha dato questi soldi come regalie. Ha parlato anche di Vittorio Mangano, lo stagliere che ha lavorato ad Arcore e poi condannato per mafia. L'ha definito una persona a modo e affabile. Cioè è sempre apparso così, solo dopo che se ne andò venne fuori la sua affiliazione a Cosa Nostra, così Berlusconi, che tra l'altro ha concluso l'interrogatorio davanti al PM in Groia, racconta Giovanni Bianconi così. L'ha salutato e gli ha detto buon lavoro in Guatemala. Così Silvio Berlusconi al PM in Groia, questo secondo il Corriere della Sera. Su Libero lo sfogo poi di Berlusconi, finito quello ha fatto una riunione con i suoi rappresentanti di partito e ha dichiarato, secondo Salvatore Dama su Libero a pagina 13, questi davvero pensano che vada in giro con la coppola e la lupara. E addirittura l'apertura del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano titola su questo: Mangano e dell'utri, due persone per bene. Berlusconi finalmente interrogato a Roma, sottolinea il Fatto, dai magistrati di Palermo in una caserma della Guardia di Finanza come testimone e vittima di una presunta estorsione da 40 milioni del suo senatore fedelissimo. Solo donazione al mio vecchio amico. Peraltro, interessante, appoggiato a questo, torno sul Corriere della Sera, è l'articolo di Luigi Ferrarella, pagina 27 del Corriere, che racconta non solo dell'utri, è stato beneficiario in tanti anni di versamenti fino a 40 milioni addirittura, ma anche adesso spuntano i maxi bonifici al figlio di Previti, di Cesare Previti, dal Cavaliere 11 milioni nel 2005, non solo dell'utri, nemmeno solo le ragazze del Bunga Bunga mensilmente sovvenzionate anche ora che in tribunale sono testimoni nel processo Ruby. Pure un altro storico compagno di viaggio dell'ex premier ne ha sperimentato la munifica amicizia, anche qui mentre c'erano processi in corso. Cesare Previti, tramite i suoi familiari. Il 27 luglio 2005 il figlio Stefano, avvocato come il padre, riceve sul proprio conto con la causale prestito un bonifico di 10 milioni di euro dal conto di Berlusconi presso la banca Arner di Milano. In quel 2005 Previti Junior gira metà dei 10 milioni su un conto di Silvana Pompili, moglie di Cesare Previti. Poi il 19 dicembre 2007 Berlusconi bonifica a Stefano Previti ancora 1 milione di euro. E quanto emerge da una relazione tecnica della Procura di Milano su alcune operazioni segnalate come sospette. E dunque, scrive Luigi Ferrarella, anche il figlio di Previti, che poi girò questi soldi in parte a Cesare Previti, che in quel momento era sotto processo. Il bonifico dei 10 milioni, per esempio, cade due mesi dopo la condanna in appello dell'ex ministro Previti per corruzione del giudice Metta e cinque mesi prima dell'appello, che anche nel processo SME lo condannerà per corruzione del giudice Squillante, sentenza poi annullata dalla Cassazione. Finiti sotto osservazione anche il conto della moglie di Previti, insomma questa è la situazione, anche se in realtà secondo alcuni giornali, Repubblica e La Stampa, la vera preoccupazione del Cavaliere è per i sondaggi che fornisce la sondaggista di fiducia Alessandra Ghisleri. Una corona di spine, racconta Francesco Bei su Repubblica. L'ultimo sondaggio sulla possibile ricandidatura di Berlusconi viene definito un sondaggio shock per il Cavaliere, cioè quante persone sarebbero disposte a rivotare Berlusconi. A questo punto avrebbe commentato lui, secondo questo sondaggio, ma siamo tutto sui retroscena della politica, a questo punto non so più se posso davvero candidarmi. Anche per La Stampa, Ugo Magri, nel suo retroscena pagina 9, racconta: per il Cavaliere il vero incubo sono i sondaggi in calo. Sul fronte giudiziario restano aperte le inchieste di Napoli e Bari, ma il vero problema sono appunto i sondaggi che lo danno per in calo tra gli elettori. Invece non è in calo sicuramente la temperatura dello scontro all'interno del Partito Democratico, nel senso che Renzi e battibecca ogni giorno, e poi bisogna capire chi ha iniziato, ecco, questo non lo so, però ogni giorno ci sono interviste. Oggi campeggia un'intervista a Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, intervistato sul Corriere della Sera da Roberto Zuccolini, un'intera pagina, pagina 11, nella quale parla molto di Renzi. Dice: registro con amarezza che sembra essere sostenuto soprattutto da quelli che il PD al governo non lo vogliono, a partire dalle personalità politiche e giornali che fanno riferimento al centrodestra. Tutto questo dovrebbe preoccupare Renzi, anche perché non credo che fosse il suo progetto. E mentre Berlusconi si ricandida, sembra che questo passi per la cacciata dal Parlamento dell'intero gruppo dirigente del centrosinistra. Cioè D'Alema dice: non ho capito, Berlusconi si può ricandidare, invece si deve rottamare tutto il centrosinistra. Ci sono, certo, esponenti che per la loro storia hanno un peso nella vita pubblica, ma questo dovrebbe essere considerato una risorsa, non è un problema che si possa affrontare con misure di carattere disciplinare amministrativo. Anche noi, quando eravamo giovani, ci siamo misurati con una classe dirigente autorevole, abbiamo discusso, non abbiamo pensato di stabilire per regolamento che doveva essere cacciata. Ma in realtà c'è da dire che il regolamento è all'interno del Partito Democratico, cioè nello statuto, il non più di 3 mandati, credo. Poi ancora D'Alema: ho detto che per governare il paese, riferito a Renzi, in un momento così difficile, unire il PD e il centrosinistra, la persona più adatta è Bersani. Non mi pare ci sia nulla di offensivo nei confronti di Renzi. Poi, ecco qui la frecciata, che cosa proponga Renzi nei contenuti ancora non l'ho capito. E Renzi risponde a stretto giro di posta: è in America la convention democratica. Lo avvicina Angelo Acquaro su Repubblica. Beh, una battuta vale per tutto, anche perché sto per chiudere. Rispetto tantissimo gli anziani. Se non ci fossero i nonni, non ci sarebbe la famiglia. Ecco, questa è la battuta su non tanto su D'Alema, ma insomma su questo conflitto vecchi-giovani. Devo chiudere con Schettino, perché è tornato. Ci sono sulla Stampa imperdibili le nuove ricostruzioni di quello che avvenne in plancia di comando quando ci fu l'affondamento del Concordia. Un minuto dopo lo scontro, Schettino disse: Madonna, caccio combinato. Questo è vero. E poi telefonò alla moglie dopo un po' dicendo: Fabi, ho finito la mia carriera di comandante. Abbiamo urtato su un basso fondale, la nave si è inclinata, ma sto facendo una bella manovra. È tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo, Schettino. Lo trovate sulla Stampa. Ma non, calcio combinato. Vogliamo parlare di attualità politica. Oggi il nostro ospite è il sindaco di Reggio Emilia, ma è anche il presidente dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani. Si tratta di Graziano Del Rio, del Partito Democratico. Buongiorno, sindaco, eccoci qua. Buongiorno a voi. Senta, intanto, visto che eravamo rimasti quando ci eravamo sentiti un po' di tempo fa col fatto che i comuni italiani come ANCI stanno pensando di sganciarsi, di creare una società per gestire la questione delicata, soprattutto di questi tempi, della riscossione dei tributi, quindi di staccarsi da Equitalia e formare una propria società. A che punto siamo? Abbiamo fatto le cose che avevamo promesso, cioè intanto va premesso che Equitalia ha deciso di uscire dalla riscossione chiedendo al governo di uscire con una legge che poi il governo ha fatto, quindi nel suo mandato. Il cellulare ci sente? No, abbiamo perso il collegamento con il cellulare. Adesso lo recuperiamo. Il sindaco di Reggio Emilia, ripeto, Graziano Del Rio, del Partito Democratico, e anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'abbiamo recuperato. Presidente, eccoci qua. Eccoci. No, dicevo. Equitalia appunto ha scelto di uscire e quindi noi abbiamo semplicemente, sulla base di quello che è successo, semplicemente voluto offrire al mercato, cioè al mercato delle riscossioni, anche una nuova società in cui vi siano dei parametri che provino a evitare gli errori che sono stati commessi in tutto questo periodo, no? Gli errori che sono stati denunciati da molti giornali, dalla stampa. Ma perché c'è bisogno di questo? Cioè, fermo che non è che con una nuova società uno paghi meno tasse, le tasse che un cittadino deve pagare, quelle sono e quelle restano. Perché la necessità di sganciarsi da Equitalia o sfruttare questa opportunità fornita da Equitalia e fare un'altra società? Ma noi non vogliamo fare un'altra società, noi scegliamo un partner tra gli operatori privati già presenti sul mercato, però chiediamo a questo partner di costituire con noi una nuova società che abbia dei criteri sugli interessi, che abbia dei criteri di comportamento che mirino, ripeto, a evitare le ingiustizie, le iniquità che sono state commesse in passato. Quindi di fatto noi non andiamo a turbare il mercato. Io uso l'esempio del trasporto aereo, dico Ryan non ha costretto gli altri operatori o i clienti a sceglierla, ha messo sul mercato al minor prezzo possibile la possibilità di viaggiare e gli altri un po' si sono adattati. Ecco, crediamo che la nostra azione abbia già ottenuto un risultato, cioè il fatto che il governo ha comunque diminuito per legge gli aggi, cioè gli interessi dovuti. Crediamo che l'esperienza di alcune società di riscossione che hanno modalità di riscossione molto più, tra virgolette, intelligenti e personalizzate possa essere utilizzata e soprattutto possa dimostrare che in Italia si può osservare la legge, ma si può anche fare in modo che la legge sia, come dire, più attenta alle esigenze e sia capace di aiutare il cittadino ad osservarla. Sì, lei in una recente intervista ha fatto questo esempio: se si applicassero, che ne so, uno non può pagare una retta, una tassa, viene applicata subito una mora del tot per cento, eccetera, magari questa persona si trova un po' in difficoltà. Se si riuscisse a umanizzare un po' di più questo rapporto col fisco, magari si riesce a venire incontro a questa persona, a questa famiglia, supera le difficoltà e poi riesce a pagare tutto. Però non si rischia di entrare in un rapporto un po' così personale che poi come si va a gestire con il cittadino? Beh, insomma, molte volte noi come comuni siamo costretti a entrare in un rapporto di questo tipo con le famiglie. Se uno perde il lavoro deve pagare la retta, proprio ieri sera, insomma, camminando per la mia città, un signore mi ha detto: mia moglie ha perso il lavoro, io sono in cassa integrazione, ho il problema del pagamento della retta alla scuola dell'infanzia. E quindi la rateizzazione di quella retta è una cosa giusta, perché io otterrei due problemi: il primo è che quel signore smette di mandare il bambino alla scuola dell'infanzia, o nel secondo caso che comunque diventa completamente moroso. Se gli permetto la rateizzazione, permetta lui di osservare le regole che tutti osservano con quel minimo di attenzione che si richiede quando si parla di cittadini. E questo Equitalia non lo fa, secondo lei? Cioè, questo è il problema? No, questo Equitalia non era in grado di farlo ed è uno dei motivi per cui anche ha scelto di uscire, perché ovviamente lei applicava meccanismi piuttosto automatici e quindi io credo che un'azienda che... Siamo un'azienda privata come nostro partner, cioè un'azienda che punta sull'efficienza e sul fatto che non si discute, i comuni devono riscuotere, le leggi vanno osservate, quindi non c'è una discrezionalità nell'osservare la legge. Nell'applicazione della legge, come spesso accade in tantissimi casi, si può invece provare a dare una gradualità che consente a tutti di stare dentro al percorso legale. Diciamo una risposta più umana. Comunque credo il 17 settembre sia una data nella quale dovete scegliere il partner con cui fare però una società a questo punto compartecipata, non è un carrozzone, non ci create un altro bel carrozzone pubblico di cui non abbiamo bisogno, o semi pubblico, Presidente? No, assolutamente, infatti io non voglio assumere dipendenti, scelgo un operatore privato come mio partner, uno che già ha esperienza nel settore, chiunque sia, che sia Poste o che siano altri operatori, e poi dopo partecipo con molta tranquillità alle gare dei comuni con le mie condizioni e penso in questo modo anche di influenzare gli altri concorrenti a tenere dei prezzi e degli atteggiamenti più sani e più, diciamo così, al minimo degli interessi. E quindi io entro nel mercato, poi ovviamente i comuni fanno le gare, non è che sono costretti a usare la società in cui lanci e social, mi spiego? Sì, questo sì. Ecco, quindi ovviamente ognuno poi sceglierà secondo quello che ritiene, noi però entriamo nel mercato con una funzione che speriamo sia calmierante e umanizzante. Allora, Presidente, qui c'è da chiarire adesso la questione politica, perché lei è un rappresentante anche del Partito Democratico, glielo chiedo e non mi faccio una risposta diplomatica, lei sta con Bersani o con Renzi? Non voglio dare risposte diplomatiche, però vorrei capire prima, siccome non stiamo parlando né del segretario del partito né di un amico sindaco, ma stiamo parlando di chi si candida a fare il presidente del consiglio, bisogna capire quali saranno le proposte concrete che propongono. Allora, facciamo una domanda un po' più semplice: le primarie vanno fatte? Le primarie vanno fatte, assolutamente sì, ed è un fatto molto positivo che Bersani abbia in un qualche modo ribadito questa cosa. C'è una parte larga dell'establishment del Partito Democratico che sta utilizzando un meccanismo di difesa assolutamente sbagliato e che cerca di non volere le primarie. Invece le primarie vanno fatte perché allargano il campo del centro-sinistra, riescono ad attivare una partecipazione democratica e riescono a fare un confronto sui programmi. Ma chi è che si sta opponendo? Cioè, chi è che vede all'interno del partito che non vuole le primarie? Io credo che molti, diciamo, maggiorenti del partito abbiano paura delle primarie, perché le primarie possono sconvolgere equilibri di correnti e di future opzioni sui parlamentari che invece, insomma, in un qualche modo sono prerogativa dell'attuale perché Renzi sta terremotando questa cosa. Ecco, se ci fossero le primarie, mettiamo che tra 5 giorni ci sono le primarie, lei certo dice io poi prima voglio ascoltare i programmi, però lei li conoscerà, lei conosce Bersani, conosce Renzi, no, perché la davano in procinto per entrare nella squadra di Renzi, ecco per questo gliel'ho chiesto. No, beh, diciamo questo, io conosco entrambi e stimo molto Matteo e credo che in questo momento abbia fatto una scelta coraggiosa, che abbia aperto un campo, che abbia allargato il campo del centro-sinistra, quindi se le sue proposte sono convincenti io tendo a favorire il ricambio generazionale, diciamo così, tendo a pensare che questo ricambio, come in tanti paesi d'Europa, sia un ricambio positivo. Però è chiaro che ci vogliono i contenuti giusti, perché stiamo parlando di un paese in ginocchio, paese con una profonda crisi, e quindi non basta la parola ricambio. No, certo, però tende ad ascoltare con molta attenzione quello che dirà Renzi e nel caso la convincerà, l'idea di questo ricambio le piace. No, perché sa, oggi D'Alema fa un'intervista sul Corriere della Sera nella quale per metà parla di Renzi e dice ma insomma anche noi eravamo giovani ma ci rapportavamo con gli anziani del partito con questo con maggiore rispetto eccetera, non è adatto a governare, e Renzi dall'America risponde ma anch'io stimo gli anziani, senza i nonni non ci sarebbero le famiglie, e capisce che questo è il dibattito. Allora le chiedo, lei rottamerebbe, non so, via tutti quelli con 3 mandati parlamentari, è una proposta giusta o è troppo rigida? È una proposta giusta, peraltro una proposta che è nello statuto del partito. E però ci sono le deroghe. Le deroghe per definizione devono essere casi eccezionali e non il contrario. Mi sembra che delle deroghe abbiamo fatto una regola. Quindi no. Cioè, perché così non ci sarebbe più Rosi Bindi, non ci sarebbe più D'Alema, non ci sarebbe più, credo, anche Bersani mi ha fatto più tre. Sì, ma io ho molta stima di tutte queste persone che lei sta citando, ma stima reale non è una frase di circostanza. Però penso che, lo dicevo ieri a un amico che mi faceva la sua stessa domanda, penso che se l'Inghilterra ha fatto meno di Tony Blair e la Germania ha fatto meno di Helmut Kohl, forse l'Italia potrebbe fare a meno di D'Alema, no? Ah, potrebbe fare a meno di D'Alema. Sì, non so. No, perché poi alla fine diteglielo a D'Alema, nel senso che... No, ma infatti io lo sto dicendo. Non ho problemi, ma non è il problema di D'Alema, non va a personalizzare. C'è il cellulare. Dove è entrato, Presidente? È entrato in una zona di campo cellulare che ci sta un po' abbandonando, no? Comunque ci sente? Infatti è caduta la linea. Vabbè, vediamo se riusciamo a recuperarlo. No, per un'ultima domanda, questa cosa di D'Alema. Tanto abbiamo ancora due minuti, ce la facciamo forse a recuperarlo. Beh, interessante, insomma, questo conflitto generazionale all'interno del partito, Democratico. C'è? No, vabbè, dai, ma ci ha detto quello che doveva dirci. Chiudiamola lì qua, tanto abbiamo solo un minuto, non so se si riusciva a finire il discorso sulla questione D'Alema. Avete sentito, l'Italia può fare anche a meno dei D'Alema se all'estero hanno fatto a meno di Tony Blair e altri. Questo ci ha detto il sindaco di Reggio Emilia del Partito Democratico, Graziano Del Rio, e oggi se volete sui giornali la trovate, D'Alema che tuona ancora contro Renzi, Renzi che dall'America dice più mi attaccano più ho consensi, e poi risponde con questa frase, non era riferita proprio a D'Alema, riferita in generale, però è una frase abbastanza emblematica: anch'io rispetto tantissimo gli anziani, se non ci fossero i nonni non ci sarebbe la famiglia. Così Matteo Renzi. Allora, di recente il sindaco di Napoli Luigi De Magistris aveva lanciato l'idea, perché non pensare a una zona cuscinetto, magari non dentro la città, dove accogliere le prostitute, controllarle con finalità di recupero, reinserimento, insomma un quartiere a luci rosse, una zona, chiamatela come volete, quartiere dell'amore, quartiere a luci rosse, una zona dove anziché affrontare il tema della prostituzione con la repressione o l'arginarlo, cercare di negarlo, anche questa è la cosa più ipocrita, perché se è chiamato il mestiere più antico del mondo ci sarà anche un motivo, invece affrontarlo in modo diverso, cercare di farne i conti, sapere che c'è e allora affrontarlo in maniera un po' più pragmatica. Che ne pensate? 800 24 00 24, ne discutiamo con tre ospiti. E intanto Mario Staderini, segretario dei Radicali nazionale, buongiorno Staderini e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Eccoci qua, i Radicali ne stanno facendo, credo, una battaglia anche con raccolta di firme. Saluto la deputata Barbara Saltamartini del Popolo della Libertà, buongiorno onorevoli, eccoci. Buongiorno a voi. E saluto il sindaco di Caserta, da cui vorrei partire, Pio Del Gaudio, sindaco, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Perché buongiorno, credo che i Radicali si siano attivati anche lì per chiedere con una raccolta di firme di fare, di affrontare in questo modo, un po' come ha proposto il sindaco di Napoli, un quartiere a luci rosse. Ci sarà mai un quartiere a luci rosse o a Caserta o a ridosso di Caserta? Lei pensa di affrontare così il fenomeno? No, io credo proprio di no. Non ci sarà mai, perché la nostra è un'attività in qualche modo di prevenzione, ovviamente di controllo del territorio nel rispetto di quello che sono, di quelle che sono le norme, ma è un'attività rivolta soprattutto alla prevenzione e al reinserimento di queste ragazze nella società, per cui creare un ghetto che in qualche modo possa tipizzare negativamente la nostra città non è mia volontà, non è il nostro interesse. Ma prevenzione, lei è d'accordo col fatto che ci siano anche persone che liberamente decidono di vendere il proprio corpo come scelta libera? Cioè non parliamo di sfruttamento, è chiaro che lo sfruttamento va contrastato con tutti gli strumenti. Guardi, qui da noi c'è un problema generale, c'è l'iniziativa, un'iniziativa che abbiamo, che si potrebbe mettere in campo relativamente al quartiere Luci Rosse, non è condivisibile, perché noi ci stiamo occupando di un'attività di controllo del territorio a 360 gradi, quindi movida e quant'altro, per evitare invasioni della nostra città anche da parte di criminalità organizzata, quindi in questo momento non è il problema dell'attività, come dire, autonoma della vendita del proprio corpo, quella è un'altra questione, in questo momento mi può trovare anche d'accordo, ma la organizzerei in modo diverso, insomma in appartamenti privati è altra cosa. L'idea di appartamenti privati invece sì, potrebbe essere. Sì, quello è un altro discorso, ma è proprio un altro discorso. Io non voglio che la nostra città possa aprirsi, come dire, al mercato del sesso libero, che tra l'altro è diseducativo e quant'altro. Sì. E soprattutto quando tu amministri un territorio non puoi dimenticare da quale territorio le caratteristiche del tuo territorio. Allora, sì, il nostro è un territorio particolare dove un'attività di questo tipo verrebbe automaticamente controllata, come oggi è, dalla camorra. Dalla camorra, cioè, Sesso libero non ci sarebbe, per cui è inutile costruire una struttura da un punto di vista anche culturale, quando poi questa struttura verrebbe manipolata, sì, da forze che sono presenti. Sì, comunque lei dice non, l'idea di un quartiere, di una zona della città dove poi magari arrivano da fuori con l'idea che tanto a Caserta c'è questa zona, no, di sesso libero, non ci sarà mai. Vabbè, ma io dico, voglio dire, ci potrebbe essere una legge nazionale che liberalizza questo tipo di attività fatte, sì, in un dato modo, allora ognuno la fa dove gli pare, con la partita IVA, ma questo è un altro discorso. E su questo lei sarebbe d'accordo? Cioè, su questo si può discutere, ognuno di noi poi deve tenere presente quelle che sono i tempi, anche perché c'è un mercato di domanda offerta arrivato a un certo punto, noi invece facciamo un ragionamento proprio diverso, sì, cioè, la vedo più una iniziativa propagandistica, quella del quartiere delle luci rosse, che altro, ecco, sì, non voglio che la mia città diventi tipo Amsterdam, perché non abbiamo nemmeno queste ci fa sapere anche via SMS ad Amburgo, cioè ci sono tante città in Europa. Ma sentiamo Mario Staderini su questo e poi l'onorevole Saltamartini. Mario Staderini, è un'iniziativa propagandistica, cioè voi vi battete magari per una regolamentazione della prostituzione, che ricordiamo è legale, cioè è illegale lo sfruttamento ma è legale la prostituzione, oppure vi siete buttati in questa iniziativa un po' così? L'idea del quartiere a luci rosse sembra un po' una fuga in avanti. Ma innanzitutto credo che se oggi ne parliamo è proprio grazie a queste iniziative popolari, cioè di democrazia diretta e allo locale, su cui a Caserta ad esempio, ma anche a Milano, i radicali hanno raccolto le firme dei cittadini e imposto al dibattito pubblico una discussione. La questione è molto semplice: oggi in Italia la legge prevede la liceità dell'attività di prostituzione, cioè di offrire prestazioni sessuali a pagamento, ma non la regolamenta, a differenza di tutti gli altri paesi, dalla Germania, la Svizzera, l'Olanda, dove lì invece c'è una regolamentazione su come si esercita un'attività che in Italia oggi è permessa, ma in realtà, appunto, non essendo regolamentata, finisce in mano molto spesso alla malavita. Quindi sì, quello che noi proponiamo e che rivendichiamo rispetto ad alcune competenze che a livello locale i sindaci possono avere, sia in termini di regolamentazione delle attività commerciali, sia in termini di gestione della sanità pubblica, è quella di disciplinare orari e luoghi piuttosto che farsene imporre dal mercato nero e dalla criminalità. Però Staderini, lei si metta nei panni di un sindaco, cioè lei fosse sindaco in questo momento, va a dire ai cittadini, cari cittadini, nel quartiere tale o tal'altro o in prossimità di questo quartiere stiamo studiando di fare questo, cioè un sindaco, io capire, cioè che fa, chi ha una casa lì magari si deprezza del 30% subito, giusto all'annuncio. Faccio l'esempio di Milano, dove ad esempio a Viale Zara praticamente sanno tutti, o nei centri massaggi si esercita l'attività e si esercita in maniera di un certo tipo, così come a Caserta c'è una differenza ad esempio tra Piazza Vanvitelli, che è il luogo dove durante la settimana le badanti nei giorni liberi vanno lì e magari c'è la possibilità che qualche casertano cerchi la contrattazione, quello è un fenomeno di un certo tipo, rispetto al quale il sindaco magari si è già espresso contro e ha detto che metterà le video telecamere, mentre invece a via Carlo III, dove invece c'è una gestione della criminalità, della prostituzione, della guardia, avviene tutto per strada. La nostra offerta è molto semplice: si facciano non tanto quartieri a luce rosse, ma si consenta soprattutto la possibilità di autogestione, magari in forma cooperativa, in determinati orari, in cui quindi chi esercita i sex worker, questo, potranno essere più controllati, più garantiti, e anche per quanto riguarda la prostituzione di strada, meglio che sia il comune a scegliere il luogo piuttosto che subirlo. No, dice meglio scegliere il comune piuttosto che subirlo. Non so, onorevole Saltamartini, so che lei è contraria all'idea dei quartieri a luci rosse, però il tema effettivamente vuole affrontare una grande ipocrisia, cioè di dire che far finta che il fenomeno non ci sia quando sappiamo tutti che c'è ed è anche in aumento e in espansione. Sì, ma dobbiamo capire i motivi dell'aumento dell'espansione del fenomeno, perché se noi non partiamo da un dato oggettivo, che è quello appunto di una prostituzione che aumenta non perché ci sia ci siano più donne che vogliono prostituirsi, ma perché c'è più criminalità organizzata che sfrutta le donne ai fini della prostituzione. Allora, siccome io sono convinta che il 90% della prostituzione, forse anche qualcosa in più, non sia una prostituzione volontaria e neanche, perdonatemi, di necessità, perché io non credo neanche all'idea della crisi, e quindi le donne che si prostituiscono perché non hanno i soldi, ma è una prostituzione costretta, quindi è una prostituzione che nasce appunto dalla una criminalità organizzata che, ahimè, sfrutta il corpo delle donne in questo modo, spesso con dietro abusi su queste donne, spesso con dietro violenza, spesso con dietro atti insomma abbastanza gravi. E allora, rispetto a questo, noi quello che dobbiamo fare oggi è un'altra cosa, è come eliminare il rapporto dello sfruttamento del ma questo però non è, onorevole, un'altra questione sulla quale credo tutti siamo d'accordo, ce l'ho detto come premessa, però lei appunto, secondo lei questa è la parte maggioritaria, percentualmente sono quasi tutte obbligate, diciamo, le persone allora, che si prostituiscono. Rispetto a questo non credo che la risposta sia a come do più opportunità alla criminalità organizzata di continuare nel proprio racket. Allora ecco perché a me non piace il quartiere a luci rosse, ecco perché a me non piace il Parco dell'Amore, gli Eros Center e chi più ne ha più ne metta. Io credo che la prima cosa che noi dovremmo fare è capirci una volta per tutte sul fatto se la prostituzione è legale o meno, se la prostituirsi debba essere un lavoro di Stato o meno, e da qui poi vorrei in essere tutte le sue necessarie. Da quando sono state chiuse le case chiuse, onorevole, sono 60 anni che se ne parla più o meno, e ogni volta ci sono le proposte e poi non si arriva mai a nulla. Infatti, quando si cerca in Parlamento di legiferare su questo. Infatti, vede, io quello che invece ritengo sia assolutamente necessario è legiferare, nel senso che noi dobbiamo, il Parlamento in questo caso, deve aiutare i sindaci, perché noi ci troviamo spesso in situazioni, io sono di Roma, vivo a Roma, quindi conosco bene la mia città e i problemi che su questo versante ci sono. Il Parlamento deve legiferare per aiutare i sindaci a porre un argine alla prostituzione di strada, che è diventata veramente indecente e soprattutto è il veicolo maggiore che alimenta appunto la criminalità. Guardi che l'unico modo, visto che cancellarla non si può, l'unico modo è regolamentarla e quindi riaprire le case chiuse. Guardi, che altro modo c'è? Le ripeto, sono contrario al fatto che la prostituzione diventi un lavoro di Stato, cioè a me non piace e non posso assolutamente accettare l'idea che una donna che vende il suo corpo faccia un lavoro. Per me non può essere un lavoro. Detto questo, mi rendo conto della situazione. Tant'è che il governo Berlusconi, l'allora ministro Carfagna, aveva presentato un testo e infatti non se ne è fatto niente. Dava via, comunque riaprivamo il tema, per cui dovevamo trovare la soluzione. Il ministro Carfagna non volle fare un testo blindato perché voleva che il Parlamento ne discutesse liberamente. Il testo è rimasto lì, poi ovviamente ha cambiato il governo, le priorità sono diventate altre. Guardi, solo questa storia, che lo so, non è la prima nell'agenda dei parlamenti, ma sono 60 anni che si ripropone periodicamente. Però insomma, l'onorevole Saltamartini dice, ha capito Staderini, è anche una questione di principio proprio, l'idea che una donna faccia questo come lavoro non, e quindi anche ci paghi le tasse, non va bene, è una cosa che proprio non le va giù di principio. Vediamo Teresa da Milano, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Teresa, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono da anni che mi batto per la legge che si riaprono le case chiuse, perché secondo il mio modestissimo punto di vista la trovo una cosa legale, pulita e corretta, perché è come una scelta di vita. Allora io come scelta di vita voglio fare la suora, mi chiudo in un convento e faccio la religiosa. Invece io come scelta di vita voglio fare la prostituta. Però ha sentito l'onorevole Saltamartini, dice non, di principio non accetto, no, non accetto questa idea. Rispetto la sua idea, ma non sono d'accordo, perché non è giusto che una donna praticamente voglia fare questa scelta e non la può fare. Io quando ero ragazza, e si aprì subito questa legge della Merlin, lavoravo ai grandi magazzini e le buttarono tutte per la strada queste ragazze. Io la sera aspettavo il bus dopo le 8 e mi prendevano per una di quelle. Io dico, santo Dio d'amore, ma perché non apriamo queste case chiuse? Queste ragazze sono controllate, fanno la scelta che vogliono, non hanno più i papponi e pagano le tasse come tutti. Invece adesso è tutto un lavoro a nero, lo divide il pappone e la ragazza, e spesso la ragazza viene sfruttata e abusata. Grazie Teresa, vorrei andare a Bologna da Sara. Buongiorno Sara. Buongiorno. Io volevo dire un sacco di cose che di fatto sono già state dette. Allora, io sono fondamentalmente molto a favore di quartieri a luce rosse piuttosto che non appartamenti dedicati a un certo periodo di attività, la riapertura delle case chiuse, perché comunque credo che sia meglio per tutti noi. Tiriamo via un degrado dalle strade che in certi casi arriva veramente a situazioni devastanti, e soprattutto una tutela di quelle ragazze, non quelle che oggi lavorano negli Eros Center o che fanno le escort, perché lo fanno già per scelta, ma quelle che vengono, come diceva la signora che stava parlando adesso, costrette, sfruttate, magari anche prima stuprate, umiliate, picchiate, compagnia bella, e che non è una loro scelta libera. Ma infatti poi, su questo, cioè, io lo ribadisco, ma l'abbiamo detto fin dall'inizio, sono due categorie ben diverse di prostituzione. Cioè su queste, Sara, bisogna, è una questione di criminalità, va colpite le persone che le sfruttano e vanno salvate, vanno recuperate le persone, che le donne che purtroppo finiscono in questo giro. Però Sara, concluda il suo intervento. Due cose bellissime. Sì. Il fatto di gestire quella che è l'attività di prostituzione garantisce anche una maggior tutela della salute della prostituta stessa, che c'è, esiste, non bisogna far finta di non conoscere. E poi voglio raccontare due cosine più o meno simpatiche che mi sono capitate. A Bologna, ai tempi dell'università, in attesa alla fermata dell'autobus una sera, si è fermata davanti a me una macchina e mi ha chiesto quanto volevo. È stato piacevolissimo. Come la signora Teresa, mannaggia, ma sembra che prendere un autobus di sera è sconsigliabile per una signora. No, mi permetta questa battuta, Sara. La ringrazio per il suo intervento, però io vorrei capire, vorrei tornare un attimo al sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio. Io effettivamente un pochino la capisco, cioè se mi ponessi nei panni di sindaco, che e sarebbe una bella patata bollente, cioè decidere per andare su questa strada e decidere di regolamentarla con un quartiere, un Eros Center, una zona comunque delimitata, e quindi posso capire le difficoltà. Però non è che paradossalmente è una cosa che un sindaco non farà mai proprio perché non porta voti. Magari lei intimamente potrebbe pensare che è una soluzione anche auspicabile o giusta o su cui si può discutere, ma non si può dire, per carità, se no... Allora, guardi, il problema è proprio è al contrario. Allora, come diceva l'onorevole Saltamartini, il governo nazionale e il Parlamento devono aiutare i sindaci a fare le loro attività, quindi devono legiferare. Non si può pretendere che un sindaco prenda un'iniziativa che sarebbe sempre un'iniziativa confusionaria, perché sarebbe un'iniziativa di tipo locale. Sì. Allora, noi abbiamo necessità di fare cassa, tutti gli enti pubblici, per cui per dire, arriveremo nel mio intimo, potrei essere favorevole alla prostituta per strada in una casa privata che alla che fine con un tasse, registratore di cassa paga le tasse e dà i soldi al comune, quindi come dire, toccheremmo un punto debole, perché noi enti pubblici potremmo guadagnare tanti soldi per i nostri concittadini, trasformare questi soldi diciamo in servizi, e quindi questo andrebbe bene. Il problema però è che, chiaro, ora il mio è un paradosso, il problema è che noi sindaci dobbiamo governare in un contesto normativo chiaro, definito. Creare dei ghetti, ripeto, siamo assolutamente contrari. Poi mi consenta, non è questo il senso della proposta dei radicali, ma per i comuni ci sono tali e tante cose da fare che la proposta fatta dal sindaco di Napoli De Magistris, in un contesto difficile quale quello di Napoli, nel quale Napoli probabilmente ha altre problematiche, eccetera, penso che voglia quasi significare, cioè ci sia una sorta di volontà di distrarre da certi problemi e affrontare problemi di carattere immediato. Qui scendiamo in cose politiche, però sta dirmi la questione. No, però le ripeto, quindi la posizione di noi amministratori non è a prescindere. Eh no, ma infatti volevo seguire proprio questo, ma non si fanno le norme. Staderini qua dice sia l'onorevole Saltamartini sia il sindaco, prima si deve legiferare a livello nazionale, ma con questa storia siamo 60 anni che periodicamente si tenta e non si fa nulla da questo punto di vista, o no? Proprio così, anzi, però quando i sindaci hanno voluto fare gli sceriffi e come si hanno fatto ordinanze antiprostituzione per fare le multe ai clienti per strada, per cui comunque si è cercato anche a livello locale di gestire il fenomeno, ci sono due modi, c'è il modo di ridurre un fenomeno sociale come la prostituzione a questione di decoro urbano e così fregandosene anche delle condizioni di salute delle stesse lavoratrici oltre che degli utenti e della criminalità che ci fa i soldi, oppure cercare di governarlo come si fa dovunque ci ha un'impostazione liberale, cioè legalizzando. Ed è proprio per questo che probabilmente oggi parliamo con due esponenti del PDL, mentre esponenti di sinistra, la sinistra diciamo del PC, ha sempre avuto grosse difficoltà su questi temi. E allora, qual è il punto? Il punto non è, come dice l'onorevole Saltamartini, se piace o non piace, perché è un problema quello dello stato etico. Noi pensiamo che ciò che è meglio oggi governare una situazione, quindi per migliorare le condizioni di vita di chi lavora, anche se appunto non è stato in una situazione di poter scegliere inizialmente, sì, e per dare sicurezza ai clienti e condizioni, ecco, di ma siccome lei ha posto no, ma su questo ha posto un tema interessante, ha detto questa parola stato etico. Vorrei andare dall'onorevole Saltamartini dopo un'ascoltatrice, perché effettivamente questa sua posizione è molto intransigente, onorevole. Prima però ancora un'ascoltatrice, Elisa da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Ma io sono di posizione contraria a una legalizzazione della prostituzione, perché andrebbe, diciamo, a statuire una normalizzazione a questo tipo di, chiamiamolo, servizio. Quindi se adesso è deprecabile a livello morale e la gente, per quanto lo si faccia, gli uomini lo fanno, sarebbe un pochettino, diciamo, normalizzato, quindi diventerebbe una cosa normale. Ma sa, però il concetto di morale vale per lei una cosa e per un altro un'altra. Lei dice deprecabile, per qualcun altro magari non lo è per nulla. È altresì vero. E poi il mio timore in una legalizzazione che, per quanto possa essere in ogni principio d'accordo a una tassazione, e la possibile creazione, soprattutto per un po' come vanno le cose in Italia, di un sistema strutturato dove c'è magari un uomo capo imprenditore con dipendenti donne che forniscono prestazioni sessuali. Quindi diventerebbe uno stipendio mensile come fosse un'impiegata, ma del sesso. Sì. Io mi scuso con l'onorevole Saltamartini, ma devo chiudere qua, il tempo è tiranno. Avevo fatto male i calcoli e ho solo 30 secondi e poi dovrei troncarla, e quindi mi dispiace. Prometto però, se torniamo sul dibattito, la riconvochiamo, magari lo rifacciamo con Staderini anche questo tema, che è un tema molto molto sentito. Ringrazio tutti, Alessandro Longoni in redazione con Elisabetta Fusconi, con Miriam Lucchetti. Allora, che dire, seguiteci su Twitter, @24mattino è la trasmissione, Alino Milan sono io, potete diventare nostri amici, seguiteci in podcast anche, perché lo so che siete dei pigroni, alle 6.30 non vi svegliate, su radio24.it c'è tutto. E ricordatevi soprattutto di non chiedere a Ciriaco De Mita, io vorrei chiedere, perché Ciriaco De Mita ha la scorta, ce lo vuole dire presidente? Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. E allora, arrivederci.